i giovani oggi non chattano più, non chattano più. Noi chattavamo, questi no. Nel 2089 non chatta più nessuno. Queste sono mani che hanno chattato tutta la vita. I giovani oggi li vedi che hanno le mani lisce, lisce, lisce come principini. I galli hanno ste mani. Tutta la vita a chattare. Tutta la vita. Ai miei tempi ci si divertiva con poco. A noi ci bastava un computer, un social network. Ci mettevi davanti a uno smartphone, quello che trovavamo. Quello che trovavamo. Mica come oggi. Oggi che ci hanno questi? Che ci hanno? La telepatia. La telepatia di qui, la telepatia di là. L'ho letto su telepatia. Sentiamoci su telepatia. Oh, mio nipote mi ha fatto provare la telepatia. Non ci ho capito un cazzo, non ci ho capito. Oggi i giovani li metti davanti in iPad. S'annoiano. Li vedi sull'autobus, per strada, immobili, tutti con le mani in tasca a leggersi nel pensiero. Ha delle patie di qui, ha delle patie di là. E le dita. Le dita, sì. Queste sono dita. Guarda, guarda come si muovono, guarda, insomma, tutta la vita accettata. All'età mia questi si ritroveranno tutti con le dita anchilosate. Fa malissimo la telepatia, datemi retta, fa malissimo. Oggi poi, come ti giri, vedi profili abbandonati dappertutto, dai. Ogni giovane oggi possiede almeno un profilo su Facebook, eppure non sa che faccia. Tanto c'è la telepatia, dicono. Non si rendono conto dei sacrifici che abbiamo fatto noi. Quando il wifi non era dappertutto. Quando c'era l'iPhone 4S che la batteria si scaricava dopo 2 ore, nessuno c'aveva il cavetto e dai a bestemmia. Ma che ne sanno questi? Che ne sanno? La telepatia. Ma vaffanculo. Ve lo ricordate il loading? Quando aspettavi che si caricava la pagina, il loading. A me manca. Lì per lì me lo devo al culo, ovviamente. Ma ora che sono più anziano, vedo le cose da un altro punto di vista e era bello il loading. Mi manca. L'altra volta te vedo mio nipote Robertino, immobile, a guardare al soffitto, con le mani tutte dritte così in silenzio. Io dico: ma che stai a fare, Roberti? E lui: shh, zitto. E io ancora: ma che stai a fare? E lui: shh, zitto, nonno. Mi sto a rimorchiare una con la telepatia. Ma vaffa con la telepatia, io ho fatto a questo. Ma lo sai i tempi miei che gli facevo a questo? Ma lo sai messa gli tizzosi su WhatsApp che gli mandavo tutta la notte a chattare? La mattina dopo stavo con 2 occhiaie così. Dopo un anno capivo che era un uomo. Ma che ne sanno questi la telepatia? Ma va. Datemi una tastiera, te la rovina. Mi sento ancora un leone. Datemi una tastiera che te la rovina questa. Datemi una tastiera, te la rovino. I giovani oggi sono soli. Perché gli amici che ti fai con la telepatia non è la stessa cosa. Dici amico su telepatia, amici, ma non è amico vero. Stai lì, davanti a quest'amico, zitto, che già sai tutto su di lui, avendogli letto nel pensiero. Ma che gli vuoi dito? Credo che poi... I giovani oggi mi fanno pena. Questa è la verità. Ora, scusate che questa frase mi piace, la vado un attimo a scrivere su Twitter. Grazie. È diventato tutto troppo facile oggi. I giovani, per esempio, non sanno più che cos'è viaggiare. Parigi, New York, San Paolo, Mosca, tutto troppo facile. Ai miei tempi c'era la Ryanair. Ti eri stampato il biglietto con l'inchiostro vecchio, 80 euro di multa. Non avevi cagato, 5 kg in più, 20 euro, protestavi, ti dicevano che stava scritto piccolo, piccolo, piccolo sul sito, che per vederlo c'è da avere uno schermo del computer grosso così. Ma che ne sanno questi, quando stavi a viaggiare e te cagavi sotto sull'aereo perché pensavi che la valigia la ritrovavi a Reykjavik, Islanda. Te quando ti svegliavi la mattina alle 4:20 per risparmiare 12 euro. Ma che ne sanno questi? Oggi capirai, oggi c'hanno il teletrasporto. Il teletrasporto di qua, il teletrasporto di là. La mi ha fatto un gelato in Groenlandia col teletrasporto? A chi apriva il primo aperitivo di cena in Zambia, dai col teletrasporto? Oh, mio nipote mi ha fatto provare il teletrasporto ci ho capito un cazzo manco con questo. I giovani oggi non si rendono conto che il viaggio, quello vero, non è la meta, no, ma il viaggio in sé. Col teletrasporto manco c'è il finestrino, non vedi un cazzo. Ai miei tempi c'era ancora chi si ricordava dell'Interrail. Ecco, mio fratello grande mi raccontava di questo biglietto mitico e ti giravi per un mese tutta quanta l'Europa, straordinario. Mio nipote Robertino una volta si è fatto l'interteletrasporto. Dura 2 giorni, no, 32. Il primo giorno te fai tutte le capitali d'Europa, ta ta ta ta ta ta ta ta. Bevi pure gratis. Arrivi a Praga che te reggi in piedi. Mio nipote: tanto c'è il teletrasporto, neanche devo guidare per tornare. Vattene a fondo. Il secondo e ultimo giorno con l'interteletrasporto tocca ai castelli della Loira, il giro dei fiordi, Lisbona di notte, i tesori della Magna Grecia e per concludere tutto il secondo giorno il cammino di Santiago. Ti riportano a casa alle 21 già magnato con l'interteletrasporto. A mio nipote gli ho fatto: ma almeno ti è piaciuto, Roberti? Ti è piaciuto? E lui: sì sì, certo, carino, abbastanza carino, abbastanza. Ma dopo 2 giorni fuori mi mancava moltissimo il soffitto di casa. Il mondo è un posto meraviglioso, no, non mi fraintendere, non mi fraintendere, ma il soffitto di casa è sempre il soffitto di casa. A Robertino: ma vatte la pia nel culo, te il soffitto di casa, io faccio. Questi hanno perso proprio l'idea del viaggio, non sanno più che cos'è. Ai miei tempi prima dei partiti dovevi fare la valigia, questi vanno in Patagonia, si teletrasportano un attimo a casa per pia un spazzolino, si teletrasportano pure mentre ci sta a parlare, sono maleducatissimi, a tavola mica o spengono il teletrasporto, te li trovi a mangiare solo come uno stronzo, te li trovi. Ma pure se vanno a mangiare fuori con una per la prima volta, o sapete che fanno questi? Allora, noi la invitavamo a cena, ognuno a leggere i messaggetti propri, certo, mentre stavi a tavola, però a un certo punto la portavi a casa a fare all'amore. Oggi questi che fanno? Mio nipote Robertino mi ha raccontato che è uscito con una che gli piaceva, una certa Susanna, non so. In ogni caso, la porta a cena fuori come facciamo noi. Solo che a un certo punto mio nipote Robertino dice che deve andare un attimo al bagno. E dove va? Dove va mio nipote Robertino mentre questa si sta ancora a finire la pizza? Dove va? Dove? Non va a scopà in Thailandia col teletrasporto. Ma perché, dico io, perché? Sono cose che non puoi capire, nonno. Ma che devo capire? L'ha invitata a farti una pizza a testaccio come se gira un attimo e a scopà a Bangkok. Ma che cazzo devo capire, Roberti? Guarda caso, pochi minuti prima che portano il conto, Roberti, che devo capire? Che devo capire? È diventato tutto troppo facile. Pronto? Ciao, sono io. Ciao caro, ecco, come stai? Tutto bene, direi, tutto bene. Allora stasera... Ti ho chiamato apposta. Guarda, io esco tardi, vengo direttamente da te. E quando finisci? Alle 9:30, è una settimana che siamo sotto per una scadenza. Sono stressatissima, guarda, ma qui ormai è sempre così. Mi immagino. Scusa, dai, non ne parliamo più, dai. No, poi mi racconti bene, ma... Quindi sei da me? E metti alle 9:50, va bene? Perfetto, dai, perfetto. Bene, dai. Sono contenta che ci vediamo. Finalmente, no? Infatti. Dai, a dopo. Verso le 10, allora. Facciamo già scopati? Ok. Dai, già scopati. Alla grandissima. Allora, a dopo. A dopo, aspetta, fammi pensare. Le 10, hai detto? Eh sì, alle 9:30 sono libera. Arrivo sicuro entro le 10. Eh beh, allora... Allora puoi scopare da me. Sì? Se vuoi. Magari ti fa più comodo. Sicuro? Per me è lo stesso. Certo, una cosa tranquilla, non ti aspettare chissà che. E ci mancherebbe, non è questo, è che non so se ce la faccio fino alle 10, cioè di solito mi faccio fare qualcosa al volo, in ufficio. Come vuoi. Io comunque scopo sempre tardi. Ah, davvero? A che ora? Alle 10. Ma dai, così tardi? Eh sì, a casa mia scopavamo sempre tardi. Ma pensa tu... E se poi devi uscire? Scopo fuori. Se devi uscire, scopo fuori. Certo. Allora, guarda, lo sai che facciamo? Dimmi. Vengo alle 10 e scopiamo insieme. Perfetto, dai. Cerco di resistere. Ottimo. Ma sei sicura? Non è che di su... Ma no, dai, basta. Ci mancherebbe. Allora, dopo, eh. Ok, ciao. Ciao.